512 baccalà in salsa bianca. Baccalà mollito grammi 400, burro grammi 70, farina grammi 30, una patata del peso di circa grammi 150, latte decilitri 3,5, lessate il baccalà e nettatelo dalla pelle, dalle lische e dalla spina. Lessate anche la patata e tagliatela a tocchetti. Fate una balsamella col latte e la farina e quando è cotta uniteci un poco di prezzemolo tritato, datele l'odore della noce moscata, versateci dentro la patata e salatela. Poi aggiungete il baccalà a pezzi, mescolate e dopo un poco di riposo servitelo, che piacerà e sarà lodato. Se non si tratta di forti mangiatori, potrà bastare per 4 persone. Per adornarlo un poco, potreste contornarlo con degli spicchi di uova sode.